Eravamo da 20 anni nella nostra sede storica in Via dell'Oro, che però, insomma, come si può immaginare, non era più adeguata perché i numeri sono saliti tantissimo, avevamo bisogno di spazi adeguati per garantire, insomma, un'accoglienza alle donne che vengono a fare colloqui, ma soprattutto era una sede che non era accessibile. Per noi questo era un cruccio notevole, perché per noi l'inclusività è fondamentale, quindi avevamo bisogno di non avere barriere architettoniche per accogliere tutte le donne, insomma, per poter davvero garantire un accesso a tutte. E invece adesso vi siete trasferiti in via Masia e questa nuova sede è anche frutto di una nuova collaborazione. Dopo una lunga, direi lunghissima ricerca per trovare un posto adatto che appunto ci garantisse le dimensioni giuste e il fatto di non avere barriere architettoniche, è stato un incontro molto felice con la cooperativa Risanamento, che è proprietaria dell'immobile, che in realtà ha consentito questo trasferimento perché ci è venuta davvero molto incontro, cioè si sono impegnati tantissimo, si sono fatti carico della metà dei lavori necessari per adattare l'immobile. È chiaro, è abbastanza comprensibile anche che noi non possiamo fare colloqui ovunque, che va garantita la privacy, che dovevano esserci appunto un numero di stanze sufficienti, quindi senza questa nuova collaborazione non avremmo potuto trovare un luogo così giusto per noi. Sabato l'inaugurazione con una giornata di porte aperte, cosa succederà? Sì, abbiamo un primo momento anche istituzionale, perché è chiaro che il nostro rapporto con l'istituzione è ormai storico, fa sì che vengano a salutarci, a inaugurare con noi le istituzioni cittadine, oltre che ovviamente il presidente della cooperativa Risanamento. Però abbiamo pensato che fosse giusto tenere aperto un pomeriggio, perché anche chi è cittadino, cittadine del quartiere, chiunque ci conosca o ci voglia conoscere, possa vedere intanto il centro nuovo, che ci fa veramente piacere mostrare visto lo sforzo che ha comportato, ma soprattutto saranno presenti anche le nostre operatrici, le responsabili dei servizi, per chi volesse conoscere anche le nostre attività, capire cosa facciamo, chi siamo, e anche per farci conoscere nel quartiere, insomma. Importante dire che i contatti invece telefonici, di mail, non sono cambiati, quindi insomma sono sempre quelli, e per questo trasferimento voi avete lanciato anche un crowdfunding. Sì, è chiaro che, come dicevo prima, è stato un investimento non solo di risorse umane, per le quali insomma devo ringraziare tutte le ragazze e le operatrici che hanno fatto veramente un lavoro gigante, è stato ovviamente un investimento anche di risorse. Sappiamo essere un tema delicatissimo per i centri antiviolenza, e noi avevamo insomma accantonato un po' di risparmi negli anni perché sapevamo che saremmo arrivati ad averne bisogno, però abbiamo aperto una raccolta fondi con produzioni dal basso, perché per l'ennesima volta chiediamo aiuto ai cittadini e alle cittadine che comunque ci sostengono tanto, perché abbiamo appunto avuto delle spese molto alte per il trasloco. I nostri recapiti telefonici soprattutto non sono cambiati, quindi bisogna solo annotarsi l'indirizzo nuovo, e comunque tutto quello che abbiamo detto si trova anche sul nostro sito, che rimane www.casadonne.it.